Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS. Ben ritrovati con SoInfo, il punto radio settimanale dedicato ai temi della salute della società, osservati attraverso uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Oggi proseguiremo la conoscenza del reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso e in particolare conosceremo l'Oasi di pediatria che, come ci spiegherà ora il professor Onofrio Sergio Saia, direttore scientifico dell'associazione Per mio figlio che l'ha realizzata, è uno spazio dove i piccoli degenti possono giocare, divertirsi, distrarsi durante il periodo di ricovero e continuare ad essere bambine e bambini, dimenticando per qualche istante la malattia. L'associazione Per mio figlio, ONLUS, è un'associazione a scopo benefico, come dice il nome, che nasce prima di Natale del 1997 per opera di un gruppo di imprenditori industriali trevigiani con l'obiettivo di migliorare l'assistenza dei bambini e dei loro genitori quando vengono ricoverati per malattia in ospedale. Quindi l'obiettivo è la umanizzazione delle cure e prendersi cura per l'appunto dei ragazzi ricoverati e anche dei loro genitori che ne fanno assistenza. L'attività ormai perdura da quasi 20 anni. Diciamo che siamo riusciti a raccogliere e ad evolvere poi in queste attività più di 3 milioni di euro in poco meno di 20 anni. L'associazione si appoggia ad un consiglio scientifico per la identificazione degli obiettivi, cioè per vedere che cosa si vuole realizzare, e io sono per l'appunto direttore scientifico. La cosa più importante che è stata fatta, realizzata e consegnata nel 2003 è quella che noi abbiamo chiamato la Oasi di pediatria, che si trova nell'ospedale di Treviso in vicinanza, in continuazione con il reparto di pediatria. Si tratta di una 400 metri quadrati di spazio, 200 dei quali sono coperti e 200, gli altri 200 sono un giardino pensile. E tutta questa zona coperta e scoperta è dedicata esclusivamente alla gestione del bambino, non come un malato e degente, ma è arredata in una maniera adatta per i bambini e l'obiettivo è quello di fare percepire a questi ragazzi, ricordare quantomeno un po' quella che è la cameretta, quella che è la loro casa. Questi spazi sono aperti tutto il giorno. In questi spazi i genitori, i parenti, i fratellini eccetera possono venire a trovare questi bambini e questo spazio, ripeto, è proprio dedicato esclusivamente alla umanizzazione delle cure. Ci sono ormai fior di lavori scientifici che indicano e sottolineano appunto la importanza dell'umanizzazione delle cure, perché a parità di malattia si guarisce molto, ma molto più rapidamente. Posso assicurare che questa è una realizzazione che non costituisce una cattedrale nel deserto, cioè non abbiamo fatto una cosa meravigliosa, anzi è una cosa meravigliosa, ma che non serve a niente e che non viene frequentata. Tutti i giorni l'Oasi è piena dei ragazzi che quando stanno meglio vanno lì a giocare, a divertirsi, stanno con i propri genitori, i fratellini, i nonni e anche assistiti da dei volontari che ruotano e li aiutano. Se volete sapere di più potete andare in internet e scrivere per mio figlio.it. Grazie per tutto quello che vorrete fare per noi. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.